Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio, oggi ritorniamo su un tema che è sicuramente un cavallo di battaglia, nostro malgrado a Salva Danaio, il tema mutui, perché come sapete bene sono sempre meno gli italiani che provano ad accendere un finanziamento per l'acquisto della casa, questo è un dato di mercato, ci sono delle oggettive condizioni di difficoltà economiche per le famiglie che fanno chiaramente rimandare questa scelta. Un altro tema è determinato dal fatto, come sapete, che le banche erogano sempre meno e soprattutto per chi non ha una consistente liquidità da mettere in campo per anticipare parte di tutto il finanziamento che dovrà poi sostenere, è chiaro che la banca oggi non aiuta più come in passato a coprire larga parte del finanziamento appunto necessario per l'acquisto di un'abitazione nuova. Ci sono richieste di garanzie sempre più severe da parte degli istituti di credito, sono più salati gli spread, cioè i rincari che gli istituti applicano ai tassi di interesse, nonostante questi negli ultimi mesi si siano abbassati, appunto i tassi si sono abbassati ma non sono diventati più convenienti i mutui, perché invece gli spread che le banche applicano sono diventati appunto più alti. Per chi ha già un mutuo e già lo stava pagando, è sempre più duro rispettare la scadenza della rata mensile, non perché i tassi siano aumentati rispetto al passato, non viviamo quella condizione drammatica di emergenza che abbiamo vissuto, lo ricorderete bene, nell'autunno del 2008, quando gli spread impazziti, i tassi di mercato erano schizzati alle stelle, rendevano davvero impraticabili le rate di chi aveva un mutuo a tasso variabile. Oggi abbiamo una condizione diversa, abbiamo una condizione di famiglie all'interno delle quali si sono persi posti di lavoro, quindi manca un reddito e quindi manca la capacità di rimborsare il prestito. Una situazione che ha reso ancora più critica dalla scadenza ormai vicina della cosiddetta moratoria ABI, che sta permettendo da gennaio scorso alle famiglie che sono in difficoltà di chiedere alla banca la sospensione della rata del mutuo. Salvo proroghe, il termine ultimo per le richieste è il 31 luglio di quest'anno e ricordiamo che già questa è la terza proroga che il sistema bancario ha concesso alle famiglie, sono state tre in tutto, questa compresa appunto le moratorie organizzate. Questa difficile condizione ha indotto il Consiglio Nazionale del Notariato, quindi l'organizzazione che rappresenta i notai del nostro paese, e 11 associazioni di consumatori ad istituire un gruppo di lavoro congiunto per fornire alle istituzioni un monitoraggio costante, un'indagine conoscitiva sul tema e quindi tornare a sensibilizzare il legislatore ad approntare delle soluzioni per fronteggiare questa situazione. Oggi Salva Danaio fa il punto della situazione rispondendo alle domande degli ascoltatori che come sempre invitiamo a raccontarci il proprio caso all'800240024 oppure al numero verde oppure al numero degli SMS 349-238-6666. Ci potete anche scrivere a salvadanaio@radio24.it o all'indirizzo, se volete, anche che utilizziamo per animare il dibattito su Facebook. Siamo anche sulle social network che da qualche giorno sta facendo dormire sonni poco tranquilli a Wall Street, invece noi continuiamo a divertirci appunto animando la discussione sui temi di finanza familiare. Siamo all'indirizzo salvadanaio-radio24. Con chi parleremo stamattina di tutto questo? Intanto saluto e ringrazio per essere ritornato con noi Angelo Peppetti dell'ufficio crediti ABI, l'associazione delle banche italiane. Dottor Peppetti, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Ricorderemo di nuovo, grazie al suo aiuto, se vorrà, a tutte le famiglie che ne hanno bisogno, come si può andare in banca e chiedere, qualora ci fossero naturalmente i requisiti, la sospensione temporanea della restituzione appunto del mutuo. E poi un'associazione dei consumatori, Tina Napoli, responsabile progetti area consumatori di Cittadinanza Attiva. Dottoressa Napoli, buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie anche a lei per il suo ritorno, così come ringrazio anche per l'ennesimo ritorno quello di Gabriele Noto, consigliere nazionale del notariato con delega alla comunicazione. Notaio Noto, buongiorno e bentornato. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Ci interesserà molto sentire qual è il punto di vista dell'organizzazione dei notai e per quale motivo anche si è pensato di riorganizzare un nuovo tavolo di lavoro con le associazioni dei consumatori. A questa prassi notai e consumatori sono abituati da qualche anno, perché insieme stanno per esempio stilando, componendo, elaborando molte guide per i consumatori, ricordo quella sul mutuo informato, comprar casa senza rischi e tante altre, e quindi insomma è una collaborazione che continua continua e che adesso è stato necessario rinverdire, rinfrescare proprio per ritornare a parlare delle famiglie in difficoltà con il rispetto della rata mensile del mutuo. Prima di partire con la nostra discussione, solo rapidamente uno sguardo alla borsa, il cui andamento vi ho già spiegato nel giornale radio, oggi è tutt'altro che brillante, si ritorna di nuovo giù, meno 2,72% a Milano, meno 1,92% Parigi, meno 1,69% Francoforte, meno 1,97% Londra, anche la Spagna perde qualcosa come il 3%, un po' meno. Oggi il quadro è questo perché, come avete sentito nel giornale radio, si è appreso che alla Banca Centrale Europea a Francoforte hanno istituito un gruppo di lavoro sulla Grecia per prepararsi ad una possibile escalation della crisi del debito del paese. Temi dei quali oggi si discute nel vertice straordinario dell'Eurogruppo. Vedremo quali tipo di indicazioni verranno formulate da questo consesso, tema del quale peraltro si è già discusso ampiamente al G8 di Camp David nel fine settimana. Insomma, aspettiamo che si prenda una direzione precisa, o l'una o l'altra. O la Grecia la si vuole salvare e diamo un po' di fiato ai mercati e un po' di sollievo a tutti, oppure facciamolo uscire dall'unione monetaria, prendiamocene tutte le conseguenze, ma che si sappia ciò a cui si va incontro e di conseguenza anche la Germania poi si prenda un po' tutte le responsabilità dei suoi no continui ad ogni possibile soluzione di salvataggio. Ci fermiamo allora con la borsa, andiamo subito al tema mutui e volevo subito partire in questa discussione che abbiamo questa mattina con tutti gli interlocutori che vi ho presentato prima, con Gabriele Noto, perché volevo capire come mai proprio dall'Associazione dei Notai è stato risollevato di nuovo il tema dell'emergenza mutui a carico di molte famiglie. Le motivazioni le abbiamo indicate anche all'inizio, non è che sia migliorata la situazione generale delle famiglie, anche perché, come dicevamo, raccontiamo spesso, la disoccupazione alle stelle e chi ha un mutuo in essere è chiaro che oggi fa molta difficoltà a pagarlo, a meno che non abbia un piccolo accantonamento, un risparmio che gli consente di tamponare, di fronteggiare questa emergenza che speriamo per tutti sia temporanea, ma anche questa temporaneità sta diventando eccessivamente lunga. Quindi, notaio, come mai avete pensato di rinfrescare, come dicevo prima, questa collaborazione con le associazioni dei consumatori per costituire questo tavolo tecnico del quale parlavo poco fa? Grazie, buongiorno di nuovo agli ospiti e agli ascoltatori. Lo spunto ce l'ha dato il governo, un governo che è qualificato, qualche volta sembra anche in difficoltà, ma che ha chiesto anche un cambiamento culturale al nostro paese. Tutti devono fare sacrifici, dice, tutti dobbiamo fare qualcosa. Noi sosteniamo questo cambiamento culturale perché, vede, il problema dell'Italia, a parte che qualcuno all'estero dice che siamo un paese cicala e forse dobbiamo dimostrare di non esserlo, ma il problema dell'Italia è che le questioni vengono spesso trattate in modo non organico. E i punti che fondano la questione alla fine sono punti di vista individuali assommati. Cosa succede? Che alla fine ognuno va per conto suo e si perde un po' di vista l'obiettivo finale. Sui mutui qual è il punto? Come su tutto il resto, far ripartire il paese, aiutare i cittadini e le imprese. In questa ottica ecco che tutti dobbiamo dare il contributo. Lo slogan che ho coniato per la nostra categoria è: il paese non ha bisogno di quelli che stanno solo a guardare. Qual è allora il significato della nostra iniziativa? Abbandonare o mettere comunque sullo sfondo i punti di vista individuali, lavorare insieme per il paese, ognuno nel proprio ruolo. Noi siamo semplicemente a disposizione, il tavolo è da portare all'ABI, lavorare con l'ABI, mettendo a disposizione le nostre risorse tecniche. Tra l'altro, appunto, come ricordava gentilmente prima, noi abbiamo una consolidata esperienza di tavoli di lavoro, con i consumatori abbiamo fatto autoguide, ma anche con l'ABI sulle surroghe molto proficuo, cioè siamo abituati a lavorare con, a lavorare per e non lavorare contro qualcosa, altrimenti la domanda che faccio io, cosa ci stiamo a fare? Cioè siamo sicuri che al paese serva un notariato, se vogliamo relegato a fondo valle, a consegnare la coppa compresso in un ruolo che non è il suo, cioè quello di semplice certificatore? Io dico di no, ma come lo dico io, lo dicono anche la stragrande maggioranza dei miei colleghi, siamo dei tecnici ultraqualificati, abbiamo un ruolo pubblico che va sfruttato per la crescita degli standard di legalità. Insomma, per riprendere il tema di prima, noi siamo a disposizione, questo è il significato dell'iniziativa, senza presunzione, senza voler fare i maestri o maestrini, pronti a dare un contributo serio da tecnici veri, forti delle consolidate esperienze con ABI e consumatori, per l'obiettivo che, ripeto, in questo momento è chiaro ed è unico a tutti i 60 milioni, salvare la pelle all'Italia e agli italiani. Volevo andare, tra l'altro, tra un minuto e mezzo già alla prima pausa, anche però all'Associazione dei Consumatori. Abbiamo visto un'iniziativa proattiva in qualche maniera da parte del Consiglio Nazionale del Notariato. Vorrei andare alle evidenze che invece raccoglie ogni giorno l'associazionismo dei consumatori. Tina Napoli, cittadinanza attiva, cosa raccontano le famiglie ai vostri sportelli? Cosa raccontano le famiglie ai nostri sportelli? Diciamo che sono racconti di fatica, di dolore e di grande comunque difficoltà economica. Noi l'abbiamo, diciamo, più volte sollevato al tavolo comunque ABI, come adesso, diciamo, al tavolo comunque con il notariato. Ai nostri servizi di consulenza, ai nostri sportelli si rivolgono ormai non più, diciamo, consumatori e famiglie che chiedono comunque informazioni, che chiedono di gestire un contenzioso, che chiedono comunque di essere supportati in alcune, diciamo, pratiche, ma sono comunque famiglie che sono comunque disperate, cioè chiamano delle persone come estrema razio perché non possono comunque pagare la rata, perché non possono comunque accedere a nessun tipo di, né al protocollo ABI né ad altre comunque soluzioni. Chiamano noi per, diciamo, un supporto, molte volte sono telefonate comunque realmente disperate, diciamo, dove noi non facciamo anche fatica a dare, diciamo, una risposta adeguata, una risposta e un supporto, perché non siamo noi quello che lo possiamo dare. Quello che voglio, che stiamo fotografando, che voglio fotografare anche oggi, è proprio la difficoltà comunque enorme in cui versano comunque le famiglie, e chi si rivolge a noi è l'anticamera dopo di un centro in chiusura o di addirittura comunque sono famiglie che rischiano comunque di finire nelle grinfie della malavita, nelle grinfie comunque dell'usura. Purtroppo, e qui lo voglio subito dire, l'azione con il notariato, come anche comunque l'azione con ABI, diciamo, devono essere maggiormente, diciamo, dobbiamo lavorare a concertarle maggiormente e a cercare di sollecitare il legislatore comunque a dare una risposta, perché lo dirà molto meglio di me il dottor Pebetti, l'accordo unico nel contesto europeo fra ABI e associazioni di consumatori ha in qualche modo aiutato comunque migliaia di famiglie, ma c'è la necessità adesso di sollecitare comunque il legislatore a dare risposte. Metterei dentro, come dire, una sollecitazione di tipo far diventare questa moratoria, per quanto poi l'ABI chiaramente magari farà anche un po' fatica a dare la sua disponibilità, qualcosa di strutturale, perché non si può fare una proroga 6 mesi per 6 mesi quando abbiamo davanti a noi una crisi che ogni minuto ci presenta una parentesi nuova, un inasprimento nuovo, una deriva nuova, per cui siamo ben al di fuori di ogni visibilità rispetto ad un termine di questo tunnel. Ci fermiamo, ci sono i primi spot pubblicitari, il meteo, poi ritorniamo con un commento naturalmente da parte dell'ABI, del dottor Pebetti, e vi raccontiamo di nuovo quali sono anche tutte le condizioni che vi permetteranno, se avete bisogno, di chiedere la sospensione della rata del mutuo. Prima di andare avanti sul nostro tema, riparliamo di mutui e delle famiglie che non ce la fanno a rimborsare la rata mensile. Volevo ricordarvi che, a proposito di pagare a rate, domani il Sole 24 Ore pubblica lo sportello fisco, come pagare le tasse a rate in tempo di crisi. Ve lo segnalo qualora vi servano anche queste informazioni. Allora, andiamo anche ai nostri ascoltatori, adesso all'800240024. Dottor Pebetti, dell'Ufficio Crediti dell'ABI, c'è una telefonata per lei. Le faccio sentire la testimonianza di Gabriella da Napoli e poi la commentiamo insieme. Gabriella, buongiorno. Buongiorno. Che bella voce che ha Gabriella. Io vorrei esprimere la mia stima e i miei saluti al dottor Pebetti. Però sicuramente non si ricorderà di me, perché sono passati un po' di anni. Dunque, io ho letto di lui su Affari e Finanze quando c'era quel periodo tempestoso dei mutui a tasso variabile. Quindi non ascoltando Salvadanaio e non leggendo il Sole 24, leggendo una testata concorrente, lei è venuta a sapere dell'esistenza di Angelo. Anche se poi vi ascolto sempre perché è molto interessante Salvadanaio e mi aggiorna su tante cose. C'era una famiglia in grosse difficoltà, una famiglia molto semplice economicamente, in serie difficoltà con queste rate di mutuo. Io avevo letto appunto del decreto Bersani, della portabilità, e a questo punto in primo luogo sono andata alla banca di origine per chiedere di praticamente di ricontattare il mutuo a tasso fisso. Sì. Vabbè, insomma, questo non è stato possibile, voglio essere breve, nel senso che a un certo punto si sono create tante difficoltà. Ho pensato di mettermi direttamente in contatto col dottor Peppetti e l'ho chiamato diverse volte, ci siamo sentiti telefonicamente, lui mi ha inviato tanto di quel materiale che mi ha dato, tutti gli strumenti. La moral suasion nei confronti di quello sportello che non voleva accontentarla, Gabriella. E quindi mi ha dato tutti gli strumenti di conoscenza, di diritto, di legge che praticamente doveva essere applicata la portabilità. Io ho trovato una banca che accoglieva il tasso a tasso fisso, però la banca di origine non voleva cedere, non voleva cedere il mutuo, assolutamente. Beh, comunque alla fine, Gabriella, com'è finita questa questione? Che perché l'ho spuntata, ovviamente. Certamente, però ha dovuto lottare un bel po'. E ha portato anche la raccomandazione della documentazione che dall'ufficio crediti centrale dell'Abile era arrivata? Io ho portato tutto e il dottor Peppetti, addirittura non conoscendomi, ma mi ha ascoltato telefonicamente e mi ha dato preziosissimi consigli. Allora, Gabriele, la ringrazio per la sua testimonianza. Vorrei scoraggiare tutti gli ascoltatori da intraprendere un'iniziativa del genere, perché altrimenti Peppetti deve andarsene a lavorare in un'altra città. Peppetti, adesso, se lei dovesse fare campagna elettorale, uno di questi giorni ha trovato un bello sponsor per il suo spot di campagna elettorale, sto scherzando naturalmente, però questa testimonianza, che è molto interessante, poi se vorrà lei la commenterà, mi dà anche l'idea qualche volta e mi frustra anche un po', perché ci dà la misura di quanto magari ci sono delle indicazioni precise di sistema e che puntualmente da voi sono arrivate in questi anni, perché questo va riconosciuto, e poi allo sportello si verifica sempre tutt'altro. Gli sportelli, i direttori di banca fanno sempre molta difficoltà a trasformare iniziative concrete le indicazioni di sistema che arrivano, che sono molto chiare, come in questi ultimi anni è accaduto. Chiusa la parentesi, se vuole salutare l'ascoltatrice, le chiedo anche di andare a raccontarci di nuovo i parametri, appunto, che è necessario avere per poter ottenere la sospensione del versamento della rata mensile. Peppetti. Sì, guardi, saluto la signora. Occorre dire che non è semplice poi star dietro alla superfetazione di norme che riguardano di fatto i mutui in particolare, quindi anche per lo sportellista occorre anche avere una capacità formativa di non poco conto, oltre che operare poi quotidianamente con i cittadini. Ricordo che, ad esempio, la disciplina della portabilità è stata modificata dalle 15 alle 16 volte nel corso degli ultimi 3-4 anni. Quello è stato veramente il frangente in cui i notai sono dovuti intervenire tantissimo, attaccati su più fronti, perché chiaramente non volevano rinunciare a molte delle loro prerogative. Poi magari con Noto ci ritorniamo su questi argomenti. Sì, sono contento che Stina Napoli abbia ricordato questa iniziativa a cui ha partecipato in maniera fattiva, cittadinanza attiva, che riguarda appunto la sospensione delle rate dei mutui, che riguarda sostanzialmente tutti i mutuetari che a partire dal 2009 hanno avuto eventi che hanno ridotto la loro capacità di sostenere il pagamento delle rate dei mutui, in particolare perdere posto di lavoro per qualsiasi tipologia, ripeto, di contratto all'entrata in cassa integrazione o in mobilità, il decesso, il grave infortunio per soggetti che hanno ottenuto un mutuo a partire da 150.000 euro. E ovviamente sta scadendo, ma ci rendiamo conto che ci troviamo ancora in una situazione di forte difficoltà per quanto riguarda le famiglie, e ovviamente dobbiamo cercare però di trovare una soluzione che possa essere strutturale. Noi i tavoli di lavoro li abbiamo aperti già dal 2007 e abbiamo portato proposte fattive e concrete. Il piano famiglia ha determinato la possibilità di poter sospendere 61.000 mutui, significa 61.000 famiglie che sono riuscite ad evitare di essere oggetto di avvio di procedure esecutive. 61.000 in tutte e tre le operazioni, con anche contestualmente questa terza proroga? tutte e tre complessivamente anche con questa terza proroga, circa 7 miliardi e mezzo di finanziamenti in due anni che sono stati sospesi, una cifra veramente, veramente importante, che ripeto non è uguale in Europa. Siamo contenti pertanto che anche il Consiglio Nazionale del Notariato abbia avviato l'iniziativa di sensibilizzazione su questa materia. Siamo anche grati di essere coinvolti in questa iniziativa, purché questo tavolo non rappresenta un tavolo ma porti poi delle soluzioni fattive. Noi l'abbiamo presentate e quindi prendiamo quali possono essere le proposte anche dal Consiglio Nazionale Notariato. Tra l'altro stavo così meditando un po' sul fatto che, essendoci già in vigore una terza proroga, è già qualcosa di molto simile ad una misura strutturale. Quello che manca, e lo dico perché stanno arrivando come sempre tutte le volte che affrontiamo questo argomento molte segnalazioni da parte degli ascoltatori, manca il popolo delle partite IVA, che non ha accesso a questa opportunità proprio perché, abbiamo spiegato più volte, non si ha la capacità attraverso il sistema bancario, anche se io credo che facendo un piccolo sforzo questa modalità si troverebbe, di quantificare il calo del business, il calo del fatturato, il calo degli affari da un anno ad un altro, e quindi si fa un po' più fatica ad individuare quegli standard in base ai quali poi anche un lavoratore autonomo potrebbe chiedere la sospensione delle rate. Per cui direi che forse, ecco, il notariato, lo suggerisco a Noto, ma credo che sono situazioni che conosce molto bene perché anche per lavoro le affronta ogni giorno, questo è un mondo per il quale intervenire. Notaio, vuole aggiungere qualcosa rispetto a quello che abbiamo sentito fino a questo momento? Ma riprendo un po' quello che è stato detto anche dal dottor Peppetti, che saluto, e confermo la nostra collaborazione propositiva, perché molto spesso dai dibattiti politici eccetera si sente solo parlare di diagnosi ma mai di proposte, quindi io accolgo il suo suggerimento, ma è anche il nostro proposito. È inutile fare un tavolo se non si chiedono delle proposte, gli obiettivi sono comuni, quindi certamente troveremo delle proposte che possano migliorare quello che gli aspetti cittadini. Va detto anche, per onestà, che le banche più di qualche volta si sono anche fatte carico di situazioni a favore dei cittadini, lo dico proprio anche qui da tecnico. Quando è stata per esempio abolita la commissione per anticipata estinzione, molte banche che consentono il passaggio dal variabile al fisso si sono anche trovate, in caso di estinzione anticipata, con un denaro sul gobbo, tra virgolette, che avevano pensato di impiegare in modo molto più proficuo. E quindi, quando è stata abolita la commissione di anticipata estinzione anche per i mutui a tasso fisso, le banche, diciamo la verità, ci hanno anche rimesso parecchio, perché chi ha estinto i mutui a tasso fisso negli anni passati, quando c'era il cosiddetto finanziamento di reimpiego, aveva delle penali molto più alte. Quindi voglio dire, e anche questa iniziativa col governo di ieri, che voi del Sole 24 Ore riportate molto dettagliatamente nelle prime tre pagine, lo sblocco dei debiti della pubblica amministrazione, è per molto la quale meritorio, quindi voglio dire, per i cittadini dobbiamo fare quello che possiamo. Va detto anche, e noi abbiamo fatto ben due trasmissioni di Salvadanaio sulle surroghe, che qualche volta per esempio sulle surroghe i cittadini ci hanno anche marciato un pochettino, c'erano i cittadini, cosiddetti surrogatori seriali, che in qualche volta mettevano in difficoltà le banche, che confidavano nell'acquisizione di un cliente per fargli un prestito, che poi si trovavano invece usate come un Kleenex, perché questo dopo due mesi andava ad un'altra banca. Quindi voglio dire, sono molte le situazioni dove si può collaborare, sempre tenendo presente che in questo momento i cittadini segnalano dei problemi di cui noi nel territorio dobbiamo farci esatto, carico. Poi noi chiaramente raccontiamo la situazione generale, all'interno della quale chiaramente ci sono poi le derive, i casi estremi, e quindi dobbiamo mettere un po' tutto nel mucchio. Detto questo, oggi noi però ci occupiamo soprattutto delle famiglie in difficoltà. Fra un istante, dopo i suggerimenti per chi è in viaggio, andremo a sentire Florian da Brescia, che vi anticipo già, vuole raccontarci che ha già fatto una sospensione del mutuo, ma il posto di lavoro ancora manca, come fa a di nuovo riprendere il pagamento? C'è un ascoltatore che ci scrive a Salvadanaio che avrebbe bisogno adesso, come è su Facebook che ci aveva scritto, non lo ritrovo più, ma comunque la sintesi era questo: avrebbe bisogno di un mutuo di circa 108.000 euro, che però andrebbe a coprire l'80% del valore dell'immobile, e quindi si chiede: ce la farò in questa impresa? Dubito che riesca oggi a trovare un finanziamento che copra l'80% di tutto l'importo oggetto della compravendita. Magari Peppetti, una battuta su questo. Qualche banca ancora un po' più generosa delle altre c'è, ma diciamo che siamo ben lontani da quella abitudine che gli istituti avevano preso qualche anno fa di coprire non quasi tutto l'importo, e qualche volta si andava anche oltre. Ma guardi, dal punto di vista regolamentare i mutui fondiari, i mutui ipotecari non possono coprire più dell'80% del valore dell'immobile, il famoso limite del loan to value ratio tecnicamente, sì. Queste sono disposizioni di vigilanza. Ovviamente la maggiore prudenza derivante da questo periodo di crisi ha un po' ridotto la media, siamo scesi intorno al 67%, è una media, quindi bisogna cercare comunque. Esatto, gli suggeriamo di mettere un po' i suoi parametri, anche perché l'ascoltatore ci aveva segnalato comunque un buon stipendio. Vada su un comparatore di mutui.it, mutui online, ne parliamo tanto di questi comparatori, vada a vedere appunto inserendo i suoi dati la cifra della quale ha bisogno e faccia la differenza tra mutuo fisso o a tasso variabile, e vedo un po' che forse con un variabile oggi magari trova anche qualcosa che fa per sé. Adesso gli spread sono molto alti, lo ricordiamo, però magari qualcosa trova. Florian da Brescia, buongiorno. Buongiorno, avermi dato la possibilità di chiedere rispettabilissimi di questo mio problema. Sì, io sono rimasto senza lavoro nel 2010 e ho avuto la possibilità di fare la sospensione della... Oh, Florian è caduto, mannaggia, non importa, sintetizzo io la sua storia perché era già piuttosto chiara nelle anticipazioni che le bravissime ragazze del nostro centralino mi indicano appunto sul display. Ha fatto una giorno sospensione nel 2010, ha perso ancora il lavoro, lo può chiedere di nuovo Tina Napoli. Queste sono le situazioni che immagino affollino gli sportelli delle associazioni dei consumatori. Chi ha già usufruito una volta della moratoria ma non ha cambiato la condizione professionale, magari il posto di lavoro è stato recuperato nel frattempo e riperso di nuovo come è capitato all'ascoltatore, oppure chi, perso originariamente, non lo ha ancora ritrovato. Cosa si può fare in questi casi? Questi sono casi che sono comunque quotidiani, diciamo, per un'associazione comunque la nostra, perché dopo la quotidianità della vita dei consumatori e la vita comunque dei cittadini. Noi siamo in una fase comunque, proprio c'è stato qualche giorno fa una riunione con ABI, ce ne sarà comunque un'altra in cui andremo comunque proprio a ridiscutere comunque di questo, diciamo, di capire come, diciamo, riuscire a costruire comunque un accordo che preveda, diciamo, situazioni che sono comunque estremamente difficili come queste, per cui al di là, diciamo, del tecnicismo ci rendiamo conto e vogliamo comunque segnalarlo ancora comunque un'altra volta che c'è, diciamo, la necessità di un intervento comunque, di interventi strutturali, perché la persona lo può richiedere, ma non risolve comunque il suo problema in un paese in cui non riparte comunque lo sviluppo, in cui non riparte comunque il mercato comunque del lavoro, per cui è una maniera per procrastinare comunque il problema, cioè per portare comunque più avanti, per diluire comunque di 6 mesi quello che diventa comunque un problema strutturale. Da questo punto di vista noi capiamo comunque il mondo comunque delle banche che non hanno, diciamo, nessun tipo, diciamo, di garanzie sul veder ripartire comunque uno sviluppo in questo paese, per cui, diciamo, proprio per dare delle risposte comunque di sistema c'è la necessità comunque di interventi che siano ormai non più sui 6 mesi, non più diciamo rinnovabili di 6 mesi in 6 mesi, ma avere un quadro resi sistematici, di strutturali, sì, sì, che siano comunque organiche. Noi come associazione comunque di consumatori abbiamo anche delle difficoltà, diciamo, arrivati comunque a questo punto in casa, estremamente difficili a consigliare comunque di procrastinare, certo, il problema di certo. Guardi, ieri giuridico, ecco, abbiamo toccato il tema del sovraindebitamento e di famiglie che lo stesso per diciamo tipologie di prestiti di altro tipo abbiamo per un po' accantonato il tema mutuo, ma poi è uscito e abbiamo dato un'indicazione molto molto drastica che, di fronte alla quale molti ascoltatori non ci stanno, perché io capisco bene che magari uno si è comprato casa qualche anno fa, coronato il sogno della sua vita, adesso non riesce a pagare, e noi abbiamo detto vabbè, di fronte ad una situazione estrema che non si riesce a sistemare dal punto di vista finanziario, meglio la tranquillità di tutta la famiglia, si può sempre vendere la casa, magari adesso ci si perde qualcosa perché anche il mercato immobiliare è in calo, è in difficoltà, però perché pure avere l'assillo della banca tutti i mesi? Vendiamo la casa, la riprenderemo magari tra qualche anno, incassiamo un po' di liquidità. Mi rendo conto che per molti ascoltatori hanno indicazioni a cui non stanno, però guardate che a mali estremi io preferisco la serenità della famiglia, poi ognuno faccia i conti naturalmente che deve fare. Non riesco a sentire Federico da Vicenza, anticipo io il contenuto della sua segnalazione e la commento per concludere con Gabriele Noto, perché gli do questo ulteriore spunto per andare a discutere sul tavolo dell'ABI, tanto è una circostanza che Peppetti conosce benissimo. Federico dice: ha acceso il mutuo, è contento di come la banca l'ha trattato e seguito, aveva avuto un primo contatto con un'altra banca che all'avvicinarsi dell'erogito gli aveva raddoppiato lo spread, anche questa è una prassi che vediamo troppo spesso e che non ci piace. Noto, direte alle banche come rispettare gli impegni presi almeno per un tot di tempo, io non dico per 5 anni bloccare uno spread già così prefissato, ma almeno 4 mesi, 6 mesi. Noto, in 30 secondi. Sì, allora distinguiamo le due cose, fase precontrattuale e fase contrattuale. Sulla fase precontrattuale c'è forse un problema, perché di fatto un cittadino, un consumatore non può chiedere più preventivi a banche diverse contemporaneamente, questa per una logica di funzionamento del CRIF che di fatto impedisce questa cosa, questa è una cosa su cui perché se no dopo il primo no si passa già a una lista potenziale di cattivi pagatori e le altre di conseguenza dicono no. Diciamo che non sono cattivi pagatori, ma viene segnalato semplicemente. Devo chiudere Noto, rapidissimo. Per quanto riguarda lo spread successivamente, nessuna banca modifica lo spread successivamente, perché non può farlo, può modificare solo le condizioni accessorie, quindi su questo tranquillizzo l'ascoltatore, perché la banca, anche se il mutuo dura 20 anni, può modificare tutti no, i parametri. No, ma qui la questione è la condizione precontrattuale, non facciamo in tempo ad affrontarla, ci ritorneremo un'altra volta. Adesso andiamo alle pillole curate in collaborazione con l'INPS, i meccanismi dell'ultima riforma delle pensioni. Oggi parliamo di un'annata che è stata particolarmente interessata da questa novità, la classe 1952, le donne nate in quell'anno. Pensioni, le novità della riforma in collaborazione con l'INPS. È vero che la riforma prevede un'eccezione rispetto alle nuove regole di pensionamento per le donne lavoratrici del settore privato nate nel 1952? Sì, la riforma ha stabilito per le lavoratrici dipendenti del settore privato nate nel 1952 una speciale eccezione per evitare penalizzazioni eccessive rispetto all'aumento dell'età pensionabile. In particolare, coloro che compiono 60 anni nel 2012 e hanno maturato almeno 20 anni di contributi sempre entro quest'anno, potranno andare in pensione di vecchiaia nel 2016 invece di attendere il 2018, come accadrebbe in base alle nuove regole. Abbiamo terminato, grazie a Tina Napoli, Angelo Peppetti, Gabriele Noto per essere stati con noi, a Marco Lombardo per la collaborazione in redazione, Roberto Scaltritti in assistenza tecnica. Domani con voi c'è Valeria De Rosa, io ritorno venerdì, buona giornata a tutti. Salva Danaio.